Sì, mi c'era mi massiva. Ma che sa che tu passi in casa? Ma senza mi tu che depina quello lì di. E là, e là, e là. Ma sa quello mamma mamma banda. Che tu a casa di MB. Ma sa cosa di l'ultimo che sai che ave? Se sei risaci di mamma. Sa se la pir male di. Da sai di dico? E là, e là, e là, e là, e là. Ma che conto non c'è in mamma c'è. Oh, na sali nino. Zenzela mwana moninga uzinga na pasi Patelanga na tangwa likambo mamona Kondelanga isoki na siliki Mwasi alinga ka presence ya mobalie Kuhotu kabola fonte Mabe bandina yo benanga iye Tokola bato baye bitolu ka ikilibo Zenzela mwana ya bato iye Bondela mwana ya batoi Uona salinito Senzela mwana moninga uzinga na pasi Batela ngana tangwa likambu bamona Bondela nga isoki na siliki Mwasi alinga ka presence ya mubalie Uoto kabola fote Mabe bandina yo penanga iye Nokola bato baye bitolunga ekilibo Senzela mwana ya batoi Bondela mwana ya batoi Uona salinindu Senzela mwana moninga uzinga na pasi Batelanga na tangwa likambo bamona Bondelanga isoki na siliki Mwasi alinga ka presence ya mobalie Oto kabola fote, babe bandina yo penanga iye Nokola bato baye bitolu ka ekilibo Senzela mwana ya batoi Bondela mwana ya batoi Bango bali ya kabala taka Bisombula mobimba pantalon moko na nzoto Eto boka kutu Oh mama Matata ya mwasi na mobali sila tela mokili mama Mama Oh mama mama Mama Oh mama Mama abotinga imwasi oya konyokolonga imwasi Zamba pesinga yetumbu Napota kabasi bandeko Banyoko robana ya bato Nayoka motema pasi bandeko Oh oh oh mama Oh mama mama mama mama mama Matata ya mwasi na mobali Sila tela mokili mama Mama Oh mama mama mama Oh mama Soki abimi azongi kotule pa ya utite Koma Soki okende ki kotrete pa pero lo bio zonga olia opema Akomi kontu na yo Uti wapi Osala ki wapi on uti wapi balon pa ki ponye Mwasi na bala na mosoro nani apesi ye autorizasyon Atune pa na uti paneko oh oh oh mama Oh mama mama mama mama mama mama Matata ya mwasi na mobali sila tela mokili mama mama Oh mama mama mama Oh mama Likambo nini ata mola taka ndambwa liputa eva konsaka yo Liso tomo na kampwale Oh mama mama mama mama mama Matata ya mwasi na mobali sila tela mokili mama mama